Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses ne m'aimerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Je ne suis pas magnifique, être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, et puis je fume. Je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Overbooking sempre sui 102.2 di Radio San Donà, un cordiale e caloroso benvenuto da parte di Alvise e da tutta la redazione. Subito un ringraziamento a Lele che sta curando la regia e a Matteo che mi aiuta nella conduzione. Allora, l'ospite di questa sera, ospite virtuale ma non troppo, è Massimo Lugli, autore di Il Carezzevole, uscito quest'anno per Newton & Compton. Il Carezzevole, un romanzo dal sapore noir, e Massimo Lugli, un gentilissimo Massimo Lugli che abbiamo avuto occasione di incontrare recentemente in occasione di Jesolo Giallo, dove appunto Massimo è intervenuto presentando questa sua ultima fatica letteraria. Due parole per Jesolo in Giallo, che diciamo si è protratto da venerdì 12 novembre fino a domenica 14, ottenendo un notevole successo di pubblico, e noi speriamo che questa manifestazione possa poi riproporsi negli anni a venire, perché è stata non solo seguita, ma anche il pubblico ha risposto con un interesse che vale la pena di sottolineare. Tra le presentazioni e gli eventi che si sono susseguiti dal 12 al 14 novembre, abbiamo appunto avuto la presentazione de Il Carezzevole di Massimo Lugli. Innanzitutto, chi è Massimo Lugli? Massimo Lugli è conosciuto ai più come giornalista di Repubblica, e lui in realtà nasce come giornalista di Paese Sera, si sposta su Repubblica in un secondo momento e si occupa prevalentemente di cronaca nera. Di questo ne parlerà poi lui diffusamente nell'intervista che abbiamo registrato per voi. Massimo Lugli, accanto a questa sua professione tra virgolette principale, intervalla l'attività di scrittore di romanzi. È al suo quarto lavoro, partendo dal 1998, quando ha pubblicato Roma Maledetta, poi con Newton and Compton pubblica tra il 2007 e il 2008 La legge di lupo solitario e L'istinto del lupo. Quest'ultimo gli vale la shortlist, ossia diviene finalista del premio Strega 2009, appunto per L'istinto del lupo. Questo Il Carezzevole, diciamo che è appunto un romanzo noir che collega, se si può dire, due, forse tre, delle passioni principali di Massimo e delle quali ci parlerà poi diffusamente nell'intervista. Allora, Il Carezzevole narra la storia di Marco Corvino. Marco Corvino è un cronista alle sue prime armi, in realtà è un volontario che all'età di 22 anni, un po' indeciso con l'università, qualche esame fatto, qualcuno ancora da fare, eccetera, ma con questa spiccata passione comincia a lavorare presso una testata giornalistica, alla Cronaca Nera. Lì, diciamo, cercherà di farsi strada, in questo mondo per lui totalmente nuovo e difficile, complicato nelle sue sfaccettature, sia nei rapporti con i colleghi, sia proprio nel trattare la materia viva, diciamo, che è la cronaca nera, nei fatti che si susseguiranno tra incidenti stradali, bambini morti senza un motivo, eccetera, eccetera. Contemporaneamente nel libro trova spazio la figura del Carezzevole. Il Carezzevole è un serial killer che, diciamo, tortura ed uccide le sue vittime sulla base di un rituale cinese e che ad un certo punto si metterà in contatto con Marco. Si metterà in contatto con Marco perché riterrà necessario far sapere le sue gesta, far sapere il suo pensiero e il suo modus operandi. Questo contatto, prima telefonico, poi poi anche personale, porta Massimo, scusate, porta Marco a una ricerca anche introspettiva, nel senso che c'è una specie di rapporto amore-odio tra Marco e il Carezzevole, ossia Marco ne è atterrito in qualche modo, ma ne è anche affascinato. Perché? Perché il Carezzevole dimostra una forza, una sicurezza e diciamo anche una fermezza d'animo che in un qualche modo concupiscono, se mi passate il termine, concupiscono il giovane Marco. Io, senza andare ulteriormente a discutere la trama, poi lo faremo più diffusamente dopo l'intervista, appunto, che abbiamo realizzato con Massimo Lugli, vi leggo l'incipit di Il Carezzevole. Il dolore era ovunque. Dolore, colore. Il bianco ghiaccio della lama, il rosso vivo del ferro incandescente, il giallo sporco dell'elettricità, il marrone ossidato delle pinze, il blu della frusta, il rosa del cuneo di legno. Lui aveva detto che i colori non si dovevano mai mischiare. Sarebbe stato un pasticcio. Ormai l'angoscia era quasi passata, lasciando il posto a una sorta di ansiosa curiosità. Quale colore stavolta? Rimase in attesa. Era la parte peggiore, perché anche la durata delle pause variava. A volte mezz'ora, a volte il doppio, e in un'occasione era sembrato un giorno intero. Non poteva saperlo con certezza, perché non aveva modo di misurare il tempo, se non contando incessantemente, lentamente, dal momento in cui lui diceva "Adesso basta" e il dolore cominciava a fluire fuori dal suo corpo. Contava e aspettava, come una fidanzata ad un appuntamento. Il dolore li univa più dell'amore. Questo lui l'aveva spiegato fin dall'inizio. Era vero. L'essenza di colori era terribile. Nel dolore viveva, nell'attesa si consumava. Ferma l'immaginazione. Non chiederti cosa verrà dopo. Respira, vivi e basta. Le istruzioni erano sempre precise, particolareggiate, pazienti, affettuose, in quel tono lento e paterno che sembrava venire da una macchina più che da una bocca, da una lingua, una gola. Nessun colore nella voce, nessuna emozione. Questo era l'incipit del Carezzevole di Massimo Lugli. Faccio notare che, non avendo, per gli ascoltatori che non avranno il libro sotto mano, che Massimo usa una tecnica, ossia varia il punto di vista di Marco Corvino dal punto di vista del Carezzevole utilizzando una tecnica grafica, ossia le parti che riguardano il Carezzevole sono scritte in corsivo. Varia anche il punto di vista del narratore, nel senso che quando si parla di Corvino il racconto è sostanzialmente in prima persona, mentre per quanto riguarda il Carezzevole Massimo usa più di uno stratagemma. Alcune parti sono lasciate ad una voce narrante, altre sono il punto di vista della vittima del momento, del Carezzevole appunto. Prima di continuare e andare a sentire il suo punto di vista riguardante questo romanzo, appunto, che da Massimo Lugli, facciamo una breve pausa e andiamo a sentirci Beirut. Eccoci ritrovati sui 102.2 di RSD, sempre in compagnia di Massimo Lugli e del suo ultimo romanzo, Il Carezzevole, e dovremo avere Massimo in collegamento telefonico con noi. Ci sei, Massimo? Ci sono, buon pomeriggio a voi e a chi ci ascolta. Ciao, allora, abbiamo un po' di domande per te. Ecco. Innanzitutto, leggendo una tua recente intervista, scopro che hai definito la cronaca nera come la forma più nobile di giornalismo. Sì. E quindi la prima domanda che mi sorge spontanea è come si collega e come si influenza la tua carriera di giornalista di cronaca nera e di scrittore di cronaca nera. Penso si influenzino a vicenda, e se ci puoi portare la tua esperienza a riguardo. Sì, guarda, si influenzano a vicenda e interagiscono continuamente, nel senso che Io ho cominciato a fare la cronaca nera che avevo 20 anni, ne ho 55, sono 35 anni. Perché secondo me la cronaca nera è letteratura, nel senso che sono passioni primarie, sono sangue, dolore, lacrime, odio, morte o anche, come dire, redenzione, arresto, c'è tutto. Soprattutto quando ho iniziato io, in cui la scrittura aveva un peso molto determinante. Oggi secondo me siamo una cultura, siamo tornati e stiamo andando verso una cultura delle immagini, no? I siti, le televisioni, eccetera. Però allora si descrivevano le emozioni, la gente non le vedeva, gliele dovevi raccontare. E ho sempre pensato che queste cose portino al romanzo. Non a caso tanti cronisti poi sono diventati romanzieri, alcuni ce l'hanno fatta, altri non ce l'hanno fatta, ma comunque secondo me l'ambizione di misurarsi con la fantasia e con qualcosa di più lungo di un pezzo è comune a tantissimi colleghi. Il mio primo romanzo era proprio una storia di bassi fondi che ho attinto, come dire, a piene mani dalla mia esperienza di cronaca, La legge di suppositorio. Prima c'era stata Roma maledetta, che mi era stato chiesto da Donzelli, ed era un viaggio così nella città infera, nella città oscura. Il carezzevole è tutto un alternarsi fantasia e realtà, cioè la storia di un giovane cronista negli anni 70 in un giornale che non viene mai nominato, ma in cui è facile, come dire, è facile calarsi, diciamo. È facile calarsi, Paese Sera. Che è il tuo primo, che è la tua prima esperienza professionale, diciamo. Sì, la mia prima esperienza per grande scuola di giornalismo, grande scuola di giornalismo. E poi abbiamo invece questa figura di fantasia, il carezzevole, che è un serial killer che prende, come dire, il nome dal carnefice della Cina imperiale e che interagisce con Marco con una serie di telefonate. Siamo negli anni 70, non ci sono i cellulari, non ci sono le mail, non ci sono gli sms, quindi sono telefonate notturne che gli arrivano a casa. E da lì si sviluppa tutta la trama. Fantasia e realtà, realtà e fantasia. Tutto quello che accade a Marco, il giovane cronista, Marco Corvino, è accaduto a me. Esatto. Quindi anticipi la mia prossima domanda. C'è molto in Marco Corvino di autobiografico. Sì, quasi tutto. Il karate, io sono appassionato di arti marziali da una vita. Esatto, sì. E in quell'epoca praticavo il karate. E poi c'è il giornalismo, poi c'è il carattere, cioè c'è questa cosa di entrare figlio di famiglia, come si diceva allora, in una redazione di sinistra, fortemente di sinistra, molto connotata, quindi era come se fosse questo marchio di infamia. Ci sono personaggi. Quando io è uscito il libro, tantissimi vecchi colleghi di Paese Sera, quasi tutti ormai in pensione, mi hanno chiamato, mi hanno fatto i complimenti, hanno detto che si erano riconosciuti o che hanno riconosciuto altri, diciamo. Io lì mi sono veramente divertito, nel senso che ho ripercorso queste tappe molto affascinanti, perché allora il giornalismo era veramente qualcosa di molto bello, era una professione splendida, molto più bello di quanto sia adesso, ahimè, insomma, almeno io l'ho vissuto. Guarda, qualcosa che mi viene spontaneo mi facevi riferimento al fatto che pratichi arti marziali, leggevo in una tua biografia in internet da parecchi anni e ne hai praticate varie, tra l'altro. So anche che questa tua passione è entrata nei tuoi romanzi, in qualche modo. Sì, in tutti. È entrata perfino in Roma maledetta, dove ho raccontato il Tai Chi a Piazza Vittorio, perché ci sono i cinesi che vanno a praticare la mattina. I cinesi, in realtà i cinesi insegnano e gli italiani stranieri praticano. E poi in quasi tutti i miei romanzi c'è il combattimento a mani nude, c'era nella Legge di Lupo, c'è questa cosa dello scontro fisico, diciamo. Non che io non sono assolutamente affascinato dalla violenza. Le arti marziali non sono violenza, anzi sono secondo me il superamento della violenza. E nel carezzevole c'è proprio il massimo di questo concetto, tanto che mi prendo una licenza e faccio praticare a Marco Corvino il karate Kyoko Shinkai, che è il karate di Masutatsu Yama. È una forma estrema di karate in cui si combatte, per esempio, a mani nude, senza protezioni, senza limiti di peso e fino a knockout. Ma non è una forma di free fight, nel senso che non è l'esaltazione del sangue, ma è l'esaltazione dello sforzo, lo spirito guerriero, diciamo. Questo karate esiste adesso in Italia da pochi anni, allora non esisteva. Io mi sono preso sta libertà, in fondo è quello che è bello di scrivere un romanzo, non un pezzo di cronaca che non devi dire proprio tutta la verità, nient'altro che la verità, ma perché secondo me le arti marziali sono un percorso bellissimo e sto considerando proprio un romanzo che sia ambientato in questo mondo, una specie di giallo che sia ambientato in questo mondo, ma dopo quello che uscirà a marzo, perché il prossimo l'ho già scritto e ci sono ancora le arti marziali. E no, una prima di passare ai tuoi progetti per il futuro, perché sempre leggendo questa tua biografia avevo trovato qualcosa di interessantissimo di cui poi voglio chiederti. Che percorso per te di, diciamo, documentazione c'è dietro la figura del carezzevole? Perché mi dicevi, lo riprendi dalla tradizione cinese, ma poi compaiono alcune caratteristiche sostanzialmente negli strumenti di tortura che il carezzevole usa, che si legano ai cinque elementi, eccetera. C'è un tuo percorso di documentazione o è più nato dalla fantasia come figura? Guarda, grazie della domanda, è bella per entrambe, nel senso che io sto praticando da 20 anni il Tai Chi Kung, che è una forma antica di Tai Chi Chuan. E normalmente questa pratica ti porta a interessarti di taoismo, quindi leggi Tao Te Ching, leggi Lao Tzu, leggi Chuang Tzu, e in questo c'è questa teoria dei cinque elementi, eccetera. Il carezzevole nella realtà è un personaggio che ha letto tutto questo, ma lo ha digerito male, nel senso che la teoria dei cinque elementi non porta alla distruzione, porta alla conservazione, semmai. Il mio personaggio cita alcuni testi, si vede che ha un'infarinatura di tutta questa roba, soprattutto di taoismo, di confucianesimo, e però le mette in pratica in modo perverso. La figura del carezzevole è reale, tra l'altro io l'ho trovata prima in un romanzo di Gary Jennings, che era un grande scrittore, mi piaceva moltissimo questa cosa del viaggio, la cosa. E poi mi sono documentato, esisteva questa figura di questo carnefice, la tortura dei 10.000 pezzettini, che non erano che tagliasse la vittima in 10.000 pezzi, 10.000 per i cinesi vuol dire il tutto, il tanto, le 10.000 cose, no? Dall'uno a quel 2, dal 2 a quel 3, dal 3 a quello, le 10.000 cose. E venivano scritti in una serie di fogliettini gli organi del condannato. Il carezzevole prendeva un fogliettino e infieriva in qualche modo su quest'organo, che poteva andare dall'orecchio alla milza. Si dice che i parenti delle vittime pagassero perché l'unico fogliettino che all'interno era rosso, in cui c'era il cuore, quindi si fermava supplizio perché la vittima moriva, venisse a galla subito, considerando che la corruzione nella Cina imperiale era una forma di cultura, lo è ancora per i cinesi, la chiamano grasso fragrante, no? Tutto è possibile, se non è vera è ben trovata, ecco, mettiamola così, Ho se capito. non è vera è ben trovata. Un'ulteriore domanda sempre legata alle arti marziali. Tornando all'inizio dell'intervista, quando hai descritto molto bene il perché la cronaca nera è la forma molto probabilmente più nobile di... Perché allora non scrivere di sport? O di arti marziali? Cioè, Hai perfettamente ragione, e purtroppo perché di sport non capisco un accidente, e lo sport è letteratura, soprattutto la boxe. Quanto alle arti marziali io ne ho scritto, ma purtroppo è un argomento che non trova minimamente, come dire, nei giornali. Purtroppo, permettimi una Sì, lamentazione, gli sport sono certo. sempre quelli: calcio, ciclismo, Sì. grasso che cola, come diciamo noi a Roma se c'è un po' di pugilato. Io ho fatto qualche inchiesta di arti marziali, ne ho fatte parecchie, ho collaborato un paio di volte con grande piacere e, come dire, volontaristicamente a riviste specializzate, Arti d'Oriente, eccetera. Però purtroppo non ci si vive. Io non sono un collaboratore del giornale, sono un articolo 1, cioè è il mio mestiere, e quindi devo trovare un campo di cui mi facessero scrivere. Lo sport, hai ragione, lo sport è letteratura, ma purtroppo non ci capisco niente. Mi manca la competenza. Poi un'ulteriore domanda su il tuo rapporto, che comunque ormai è pluriennale, con Newton e Compton. Ci vuoi raccontare come è nato? Perché questo è un libro in sostanza in qualche modo di conferma, perché comunque porta avanti un tuo rapporto appunto duraturo. E mi par di capire, da quanto ho letto un po' in giro, che tu eri un po' sfiduciato dal mondo della narrativa ai tuoi primi lavori, e a un certo punto nasce questo idillio con Newton. Ma guarda, io ero uno dei tanti autori che non trovavano un editore, tanto per dirla chiara, nel senso che un certo giallo che scrissi tanti anni fa, purtroppo non sono riuscito a pubblicarlo, e l'istinto del lupo, anzi scusami, perdonami, La legge del lupo solitario, mio primo, stavo lì lì, ci ho messo tantissimo a finire perché avevo paura di non trovare un editore, avevo paura di scoraggiarmi. Una volta mi chiama Newton Compton, l'ufficio stampa, per chiedermi di presentare un libro di Cristiano Armati, Italia Criminale, bellissimo libro tra l'altro. Io accetto, ovviamente senza condizioni, però poi dico, alla fine vi chiederò un favore. E Ho fatto la presentazione con grande piacere, perché il libro mi è veramente piaciuto e mi piacciono le cose che fanno. E alla fine delle cose ho detto a questa ragazza, che non c'è più dell'ufficio stampa, io vorrei mandare un manoscritto all'editore. Lei ha dato la risposta standard, cioè mandi una scheda. Quando dicono mandi una scheda, puoi star sicuro che il libro non verrà mai pubblicato, perché è impossibile riassumere un libro in 20 righe. Cioè, voglio dire, si parla Licet, ma immaginiamo, che ne so, Huckberry Finn in 20 righe, che senso ha? Comunque, mentre stavo scrivendo la scheda, mi telefona questa ragazza e mi dice: no, l'editore è interessato al manoscritto, lo mandi così. E io ho aspettato con la solita ansia, credo, di chiunque, qualunque autore che aspetta il responso del suo primo editore, e poi mi hanno chiamato, mi hanno detto che il libro era piaciuto, è andato bene. E da lì è nato, l'anno dopo, l'incredibile avventura del Premio Strega. Esattamente, sì. In cui tu risulti finalista. Sì. E quell'esperienza lì, cioè, a parte, immagino, averti fatto conoscere al grande pubblico, ti ha cambiato come scrittore? Ti ha permesso, ad esempio, di, non so, conoscere o relazionarti con altre firme o altri scrittori che ti hanno poi influenzato? Che ricordo ne hai? Guarda, no, l'influenzato no, certo che è stata un'ubriacatura incredibile. Io sono un cronista di nera, voglio dire, resto un cronista di nera. Trovarmi lì con gli scrittori veri, valutati, alle volte non sempre simpaticissimi, ci vogliamo dire, alcuni molto simpatici, molto umani, altri un po' meno. Beh, era una cosa, io ogni tanto mi dicevo: che ci faccio io qui? Mi sembrava di essere Cinderella Man, il pugile che è andato a combattere, no? Sì. Chiamata all'ultimo momento. Credo di essermi difeso con onore, nel senso che poi la Newton è una casa editrice a diffusione nazionale, ovviamente non è Mondadori e Einaudi, per cui il lavoro che si fa è molto di più. A un certo punto mi ha confermato, come dire, io ancora non ci credevo di essere uno scrittore, mi ha confermato in questo, nel senso che rilasci interviste, parli con i colleghi che ti interpellano. È buffo per me rilasciare interviste, anche questa che sto facendo. Normalmente io sto dall'altra parte, non del microfono ma del taccuino, quindi non sono abituato. E mi ha fatto pensare: ma sì, forse qualcosa di buono ho fatto, perché poi il libro, l'istinto, a me è piaciuto tanto, ma chiunque scrive una cosa gli è piaciuto. Ma è stata una bellissima esperienza. Poi tutti a parlare male del Premio Strega, sempre, no? Il Premio Strega, sì, poi è un conclave rinascimentale, un impiccio, un imbroglio. Sicuramente in parte è vero, come tutti i premi letterari, però io voglio sapere qual è lo scrittore che non ci vuole arrivare. No, infatti. E quindi, insomma, io ringrazio Dio di aver avuto questa occasione. Mi ha cambiato, sì, mi ha cambiato la vita. Nel senso che a quel punto è diventata una cosa più seria questa attività parallela. Ecco, forse la casa editrice è diventata un pochino più pressante, tant'è che il carezzevole me l'hanno chiesto, come dire, a tamburo battente, ecco. E beh, adesso rimane l'ultima domanda sui pensierini per il futuro, diciamo. Sì. Progetti futuri letterari, no, cioè, mi hai anticipato prima che qualcosa c'è già di scritto. C'è già di scritto e verrà pubblicato a marzo. Dovrebbe chiamarsi L'Adepto. Uh-huh. Ed ha lo stesso protagonista del carezzevole, Marco Corvino, solo che adesso ha 50 anni. E siamo nel mondo di oggi, con le mail, il computer, eccetera. È un po' sfigato, è un cronista di nera, sfigato, che è rimasto cronista di nera, e si misura questa volta con un altro genere di male, cioè il male spirituale, quello esoterico. Diciamo, un romanzo non simile, ma insomma con lo stesso. Io non voglio fare i romanzi in serie, non mi piacciono in genere, però mi piaceva vedere l'evoluzione di un personaggio e anche l'evoluzione del modo di fare giornalismo, di vivere la professione, di misurarsi con la vita, perché lui è divorziato, ha un figlio piccolo, insomma, vive una storia d'amore. E questo romanzo è già pronto, devo solo fare editing, ecco, diciamo. E una curiosità: il Marco Corvino a 50 anni pratica ancora arti marziali oppure? Sì, pratica Tai Chi Kung, guarda caso, pratica Tai Chi Kung. Non può più fare karate perché è vecchio come il sottoscritto, cioè non è più l'età di prendere e dare calci e pugni in faccia. Però pratica una cosa più energetica, più adatta alla sua età, al suo temperamento, alla fase della vita in cui sta, anche se si può praticare karate fino a 80 anni tranquillamente, però insomma lui ha fatto questa evoluzione. Beh, in qualche modo come i musicisti. Sì, è vero. Io ti ringrazio tantissimo per il tempo che ci hai voluto dedicare e ringrazio il Comune di Jesolo per averci dato questa opportunità. Quindi ti aspettiamo per il seguito del carezzevole appena vedrà la luce. A marzo. Grazie infinite. Grazie a voi. Arrivederci. away from me. Time blows us along the road. Used to love the sky wide and hanging low. And we'd grow when it was clear. We'd watch the city lights as they disappear. I know it's all temporary. My love shakes like a leaf. Radio Sandonà, ben ritrovati in compagnia di Overbooking. Stiamo presentando Il Carezzevole, ultima fatica letteraria di Massimo Lugli. Massimo, che abbiamo appunto avuto occasione di incontrare per Jesolo in Giallo, questa manifestazione a tema che si è svolta appunto presso il comune di Jesolo tra il 12 ed il 14 novembre. Massimo, che appunto al suo quarto lavoro, diciamo sulla lunga distanza, ha scritto questo Carezzevole in cui, come ha avuto modo di dirci, c'è molto di autobiografico, ossia il Marco Corvino è in realtà un Massimo Lugli alle prime armi, ai suoi primi tentativi come giornalista di cronaca nera. Se vi ricordate un po' l'intervista, Massimo ci parla un po' di quello, della differenza che c'è tra lo scrivere per un giornale giornalista e lo scrivere come romanziere, quindi del romanzare, e questa parte si ritrova un po' nel Carezzevole. Vi vado a leggere uno spunto che a noi qui in redazione è molto piaciuto. Siamo in un momento in cui Marco Corvino deve cercare di stendere un pezzo di un 700 parole riguardante un incidente mortale d'auto. Un sorpasso azzardato e un'utilitaria è andata a schiantarsi contro il muso di un camion. Nell'auto sono rimasti i cadaveri maciullati di tre giovani operai. il conducente dell'autoveicolo non ha avuto il tempo di frenare. La voce di Tarioli che leggeva da sopra alla mia schiena mi fece sobbalzare. Non lo avevo sentito arrivare, impegnato nelle ultime correzioni dopo 3 ore di fatica. Avevo una visione a tunnel concentrata sul foglio, un udito selettivo che tagliava fuori il frastuono delle altre macchine da scrivere, il trillo dei telefoni, il raspare continuo di radiopolizia e le chiacchiere di chi non aveva un cazzo da fare. L'attacco non è male, commentò il principe, appropriandosi di una sedia accanto alla mia, ma evita il verbalese. Perché è andata a schiantarsi quando puoi dire semplicemente si è schiantata? Pensa di parlare a tuo fratello, se ne hai uno. Diresti mai autoveicolo? Chiamalo camion, parla come mangi. Vuoi evitare le ripetizioni? Scrivi automezzo, mezzo pesante al massimo. Anche se è brutto. Sì, ma avevo pensato sull'attacco per mezz'ora buona e mi sembrava folgorante. Poi non diventa troppo colloquiale. La nera è colloquiale. Frasi brevi ed evita i congiuntivi come la peste. Lascia il verbalese fuori dalla porta. Il proiettile andava a colpire. L'arrestato veniva condotto in carcere. Che schifezze. Altra cosa, maciullati. È brutto, fa compiacimento della frattaglia, di straziati o martoriati. Hai ragione, ammisi, anche se quel maciullati mi sembrava una perla, rendeva perfettamente l'idea di quell'ammasso di carne sanguinante. Ma lui era il principe e io una puzza qualsiasi. Mi sentivo onorato della sua attenzione. Quei tre erano operai e dovevano andare al lavoro, giusto? Proseguì Tarioli. Probabilmente hanno superato per paura di prendersi un cazzettone dal capoccia o una multa sul salario, no? Certo, ma l'ho scritto, protestai indicando il foglio. Nella seconda cartella, tono leggermente ironico. Beh, effettivamente, vedi, immagina di tornare a casa. Tua mamma o tuo fratello, sempre se ne hai uno, ti chiedono: chi hai scritto di bello oggi? Cosa rispondi? Te lo dico io. Tre poveracci andavano a lavorare e per fare prima hanno sorpassato, sono finiti contro un camion e sono morti. Pensa, non avevano neanche 60 anni in tre e erano sposati e uno aspettava un bambino. La storia è tutta qui. Sfrondala, mettici un po' d'azione e hai l'attacco del pezzo. Dopo le prime 10 righe, la maggior parte dei lettori si alza dal cesso, si pulisce il culo e butta via il giornale. E questo era un divertente passaggio del Carezzevole, appunto l'ultima fatica di Massimo Lugli. Beh, noi qui in redazione vi consigliamo caldamente di leggerlo, è scritto con uno stile molto asciutto, diretto e vi porta attraverso, vi rende partecipi, diciamo, della vita di Marco Corvino e della vita un po' più, diciamo, un po' più fuori dagli schemi del Carezzevole fino all'incontro fatale tra i due. Io vi ricordo che per qualsiasi suggerimento, per intervenire in trasmissione e suggerirci letture o commenti o qualsiasi altra cosa, potete telefonarci allo 0421 56 0993, mandarci un fax allo 0421 56 0994 o raggiungerci tramite email a radio@radiosandona.it. La puntata con Massimo, come tutte le altre puntate di Overbooking, è sempre scaricabile dal nostro blog, che è www.bloverbooking.wordpress.com. Lì potete trovare tutto ciò che gravita intorno all'universo di Overbooking, quindi recensioni di libri di cui ci occupiamo, appunto le puntate, e il frutto delle nostre collaborazioni con Scuola Holden e il Comune di Jesolo. Vi segnalo anche che il 30 novembre, sempre a Jesolo, ci sarà la proiezione per il ciclo Cinema Martedì, la proiezione di Welcome, un film francese che ho personalmente potuto vedere, tra l'altro è uno dei, diciamo, dei più applauditi all'ultimo Festival di Berlino 2000, del 2009, e quindi vi consiglio caldamente la visione. Detto questo, vi ricordo che la prossima settimana ospiteremo un nuovo libro e questa volta il nostro Matteo ci porta una ventata d'oltreoceano in qualche modo, perché parleremo di Pablo Ignacio Taibo. E prima di lasciarvi, un caloroso saluto, una arrivederci alla prossima settimana, e questo è David Bowie. Wow.